217. Coratella d'agnello alla bolognese. Tagliate il fegato a fettine e il pasto a pezzetti, e così naturali buttateli in padella con del lardo. Quando la coratella sarà quasi cotta, scolatela da tutto l'unto e gettatevi dentro un pezzetto di burro. Continuate a friggere e poco dopo versate in padella sugo di pomodoro o conserva sciolta nell'acqua o nel brodo. Conditela con sale e pepe, mandatela in tavola con questa sua salsa e state sicuri che sarà lodata. 218. Fritto d'agnello alla bolognese. Il meglio posto dell'agnello per friggere è la lombata, ma può servire benissimo anche la spalla, compreso il collo. Spezzettatelo e friggetelo come la coratella del numero precedente.